Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, puntata particolare perché ascolteremo poi in diretta e chiaramente la commenteremo anche tutta la cerimonia di investitura del presidente americano Barack Obama. Tra poco infatti la cerimonia ufficiale, ha già giurato come prevede la legge americana ieri, ma domenica la cerimonia, quella ufficiale a Capitol Hill, discorso giuramento e poi discorso vero e proprio avverrà tra circa mezz'ora, stiamo sui tempi diffusi poco fa dalle ultime agenzie. La trasmetteremo in diretta e poi la commenteremo, perché chiaramente sarà un intervento, quello di Barack Obama, molto molto giocato sui temi anche economici, fiscal cliff, quindi accordo con il Congresso per le misure di carattere fiscale e anche di agevolazione, oltre che tasse anche agevolazioni, ma anche i rapporti di carattere internazionale. Questo per quello che riguarda il programma. Come sempre commenteremo la borsa, più 0,40% Milano in linea con Parigi, più 0,50% e Francoforte anch'essa mezzo punto percentuale, mezzo punto lo guadagna Londra e quasi anche l'America, più 0,40%. Cercheremo di affrontare anche il tema che oggi ha scosso il mondo della politica, un articolo molto duro del Financial Times, quotidiano britannico, la Bibbia, il riferimento per la City, per la piazza finanziaria londinese, il quotidiano economico finanziario più venduto al mondo, l'attacco molto duro a Mario Monti, anche perché in precedenza ricordiamo vari, come si chiamano in gergo, endorsement, comunque apprezzamenti per l'opera di Monti. Oggi invece in un editoriale di Wolfgang Munchau sul Financial Times Online viene detto: ha fatto riforme modeste fino all'irrilevanza, il calo dello spread è da attribuirsi solo a Mario Draghi, il governo di Mario Monti ha provato a introdurre riforme strutturali modeste, annacquate fino alla irrilevanza macroeconomica, ha promesso riforme finendo in realtà per aumentare le tasse, ha iniziato come tecnico ed è emerso un duro politico. Molti italiani sanno che sul calo dello spread è legato a un altro Mario o a Mario Draghi. Poi una coda, come dicevano i latini, in cauda venenum, nella parte finale il veleno molto pesante su Monti, dice Monti ricorda che tra i suoi argomenti c'è stato quello di aver salvato l'Italia dal baratro da Silvio Berlusconi, ma sostiene l'editorialista: la mia ipotesi è che la storia gli consegni un ruolo simile a quello svolto da Heinrich Brüning, che era l'ultimo cancelliere della Germania prima di Hitler, quello dal 1930 al 1932, anche lui era il prodotto della convinzione che non ci fosse alternativa all'austerità. L'Italia ha ancora delle scelte a disposizione, ma deve farle. Ora, ognuno la pensi come vuole, faccio solo notare che il parallelo tra come si mosse la Germania prima di Hitler con l'austerità che portava alla disoccupazione e le misure che la Germania vorrebbe adesso applicate a tutta Europa, l'abbiamo fatto modestamente anche noi. E per quello che riguarda il mercato americano è chiuso, certo, vi ho dato l'ultimo dato di venerdì scorso, oggi l'America è tutta chiusa, ma non solo per l'insediamento di Barack Obama. E per quello è il Martin Luther King Day, tra l'altro Obama userà proprio una Bibbia nel giurare, userà quella di Abraham Lincoln ma anche quella di Martin Luther King, proprio per ricordare il Martin Luther King Day. Il parallelo l'abbiamo fatto anche noi sulle politiche, diciamo, estremamente austere e rigide e l'aumento della disoccupazione e l'instabilità sociale che portò nel 32. Ancora per quello che riguarda i temi, commenteremo questo. Ci occuperemo anche banalmente di noi, del Sole 24 Ore che lancia il nuovo sito, e poi alcune dichiarazioni sull'ILVA. Dico subito, sull'ILVA non c'è ancora novità, forse tutta la decisione è slitta a domani, ma intanto partiamo subito con le notizie in breve, fermo restando che tra i titoli, visto che le citavo, il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione è Telecom Italia, meno 2,30, il migliore Fiat, più 3,91, Fiat Industrial, quindi auto e camion e trattori, Fiat Auto invece più 3,50, Buzzi Unicem più 2,30, Prismian più 2,20, Pirelli più 2, Exor più 1,70, Parmalat più 1,5 come Snam. E il Banco Popolare, per i vostri sms 349-238-6666, oppure per comunicare c'è anche la pagina Facebook del programma Focus Economia. Restiamo sull'economia europea, perché oggi Angela Merkel, il CDU, ha preso uno schiaffo in Bassa Sassonia, test cruciale prima delle elezioni politiche che in Germania saranno a settembre. I conservatori della CDU, quindi della Merkel, restano il primo partito ma crollano, perdono 6,5% di voti, scendono al 36% dei voti. Molto forti i liberali col 9,9% delle preferenze, l'SPD, i socialisti democratici al 32,6% in aumento, i verdi al 13,7%. E mentre la banca centrale tedesca vede una ripresa già nei primi tre mesi del 2013 per la Germania, dopo il calo dello 0,5% registrato negli ultimi tre mesi del 2012, oggi l'Istituto tedesco di ricerca economica IFO, quello che misura anche l'andamento della fiducia degli imprenditori e dei consumatori tedeschi, ha detto: attenzione, la Germania sta esportando troppo, ossia la bilancia commerciale ha un livello superiore al 6% del PIL, 169 miliardi di euro, pari al 6,4%, e la Commissione europea da sempre considera un livello superiore al 6% nella bilancia commerciale rischioso per la stabilità dell'area euro. E perché? Perché nella ricerca viene anche fatto notare che le esportazioni tedesche nell'area euro, e quindi è chiaro che sei un paese che esporta tantissimo, squilibri l'area. Infatti da più parti si chiede che i tedeschi consumino un po' di più in modo da far ripartire anche le esportazioni degli altri paesi, se siamo tutti nella stessa casa. Ebbene, l'Istituto IFO sostiene che queste esportazioni sono nell'area euro in buona parte sostenute con i soldi dei contribuenti tedeschi attraverso il sistema di crediti tra banche centrali della Banca Centrale Europea e attraverso i piani di aiuto e sostegno ai paesi in difficoltà. Nel frattempo la Banca Centrale Europea fa notare che diminuiscono le banche nell'area euro. In Lussemburgo 124 banche in meno nel 2012, in Francia le chiama istituti finanziari e monetari, 105 meno in Francia, non sono solo le banche, sono tutti gli istituti finanziari e monetari, 55 meno in Italia. E sempre in tema di banche, ma banche italiane, questa settimana gli uomini del Fondo Monetario Internazionale saranno impegnati in un giro presso banche, industrie e authorities, oltre ai vertici delle banche, dell'ABI, quindi l'Associazione Bancaria Italiana. Toccheranno tra gli altri gli ispettori BPM e Unicredito, si concentreranno sui crediti a rischio, mentre più in generale i vari incontri dovrebbero fornire agli uomini del Fondo Monetario Internazionale dati per il consueto report, quindi analisi sull'Italia. Nel frattempo in Europa oggi è intervenuto il ministro all'economia Vittorio Grilli, ministro uscente chiaramente, al Parlamento europeo. Ha detto: ora l'Italia è un paese molto diverso da prima, che sta cambiando profondamente con modifiche non reversibili. L'azione del governo è stata incisiva, si prosegue in questo modo nel futuro. Oggi posso dire che l'Italia è un paese diverso, che sta cambiando e cambiando profondamente con modifiche a mio avviso non reversibili. Un percorso è stato iniziato, direi non solo iniziato ma anche portato a termine con una azione di governo incisiva. È chiaro che la strada non è conclusa e sono sicuro che sia a livello europeo che a livello nazionale tutte le istituzioni responsabili sapranno continuare questo importante lavoro. E poi Grilli ha detto: la fine della recessione arriverà nel 2013 in Italia, ha confermato che si arriverà al pareggio di bilancio già quest'anno, io mi auguro che abbia ragione, che non vi sarà nessun bisogno di una manovra aggiuntiva, e ha parlato quindi sia di pareggio di bilancio che di manovra aggiuntiva. Il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013 non è un raggiungimento del pareggio di bilancio in termini nominali, ma come d'accordi è a livello strutturale, cioè aggiustato per il ciclo. Quando noi abbiamo nel dicembre del 2011 impostato la manovra correttiva per raggiungere il bilancio in pareggio, le previsioni economiche allora erano molto diverse, più favorevoli di quelle che abbiamo poi constatato. È evidente che tra il dicembre 2011 a oggi le condizioni, le prospettive economiche del nostro Paese, non solo del nostro, sono peggiorate. Noi come Italia e anche nel dibattito europeo è stato stabilito un principio secondo noi importante, cioè quello di non rincorrere la recessione. Quindi il nostro obiettivo di bilancio, che quando abbiamo fatto la manovra correttiva a dicembre del 2011 era anche un obiettivo nominale, non è più stato possibile esserlo nominale, ma abbiamo mantenuto l'obiettivo strutturale, cioè aggiustato per il ciclo. Quindi nel 2013, quest'anno, l'obiettivo di bilancio in pareggio non è né mai stato dichiarato da noi zero in termini nominali, ma zero aggiustati per il ciclo. Non ci sarebbe una necessità di alcuna manovra, perché, come abbiamo già fatto prima, non la rifaremo adesso, o spero non la rifarà un governo successivo, perché l'obiettivo è aggiustato per il ciclo. E quindi il principio assolutamente, secondo me, dal punto di vista economico corretto, che una volta che si ha il bilancio in pareggio in termini strutturali non si deve appesantire ulteriormente l'economia in un momento di difficoltà con ulteriori manovre. E poi Grilli ha continuato: l'Italia non aveva alternative all'austerità. Su questo sapete che questo programma è molto scettico, nel senso che era giusto tagliare, si è tagliato poco, aumentare le tasse, le pensioni e quant'altro, la lotta all'evasione si può fare di più, ma a mio avviso si poteva anche chiedere all'Europa un maggiore impegno per politiche anticicliche, cioè che liberino un po' di risorse. Comunque, detto questo, sull'ILVA, il GIP oggi dovrebbe decidere sul dissequestro dei prodotti finiti, è probabile però un rinvio, nel senso che il ministro dell'Ambiente Corrado Clini oggi ai microfoni di Radio 24 ha detto: spero che sull'ILVA non sia necessario adottare un altro provvedimento, il dissequestro dei prodotti finiti è necessario per finanziare, quindi per che vengano poi venduti, e in questo modo vi sia cassa per pagare gli stipendi e finanziare il risanamento ambientale. Due notizie in breve le abbiamo purtroppo sulla crisi degli altri, ma forse anche su vecchie abitudini, speriamo che non siano vere, nel caso specifico al Senato. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. Allora, intanto vedo che alcuni dicono: ma insomma, non, Barisone, non capisco però quali siano le sue proposte. Io continuo modestamente a dirle, fermo restando che non devo fare nessuna proposta, ma a mio avviso, qualunque sia il governo, bisogna andare a Bruxelles a ricontrattare tutto il fiscal compact, cioè quegli accordi presi, perché sennò la Germania non avrebbe sbloccato gli aiuti alle banche e il fondo salva stati, in che obbligheranno noi a tagliare di 20 miliardi il deficit, o meglio il debito, scusatemi, il debito nei prossimi anni fino al 2020. Lo dico perché è giusto rimettere a posto i conti, ma si fa meglio quando l'economia cresce. Tagliare e continuare a chiedere tagli e quindi poi anche tasse nel momento in cui l'economia è in recessione è sbagliato. Io sono per un governo che vada, qualunque sia il colore, a Bruxelles a dire chiaramente: continuiamo a fare i compiti a casa, ma adesso basta con questa logica solo tedesca di che bisogna risanare quando uno ha già fame ed è in recessione. La Germania ha avuto modo di risanare i suoi conti con l'economia che cresceva e con molto più tempo di quello che dà a noi. Okay? Quindi questa è, in quel modo, libere risorse, non crei più debito, perché sarebbero investimenti di carattere europeo, e riesci, con la lotta all'evasione, con qualche risorsa in più sul deficit, a ridurre, secondo aspetto, visto che me lo chiedete, il maledetto cuneo fiscale, ossia abbassare le tasse in busta paga di chi le tasse le paga tutte perché riceve la busta paga, ok? i lavoratori, i dipendenti, gli operai, gli impiegati, a loro, in modo che possano ripartire contemporaneamente i consumi un po'. E quindi una leva è sul fronte dell'occupazione, creare opere, investimenti che tornino a far lavorare il settore dell'edilizia, ma non solo, e dall'altra ridurre le tasse in busta paga. Troppo keynesiana, non lo so, a mio avviso questa è la soluzione per uscire dall'ennesimo anno di recessione in cui politiche solo restrittive ci hanno portato. Vabbè, rapidamente, perché vedo che Obama sta per iniziare, due notizie. A fine legislatura il Senato sta per indire un concorso praticamente ad personam per due medici. Tra i favoriti ci sarebbero il dottore di Calderoli e quello di Schifani. È infatti polemica per la delibera approvata dal Consiglio di Presidenza della Camera del Senato il 5 dicembre scorso, 17 giorni prima dello scioglimento delle Camere. Si legge nel bando assunzione a tempo indeterminato di due medici per la struttura dei presidi sanitari del Senato. Il bando è rimasto stranamente segreto, affisso solo in una bacheca interna, non è stato pubblicato sul sito online, e i due requisiti che vengono richiesti segnalerebbero già i candidati: bisogna avere la specialità in cardiologia o medicina interna, appunto ce li hanno i due specialisti, e nel secondo caso occorre aver effettuato turni presso l'ambulatorio della struttura dei presidi sanitari del Senato dal 1 giugno 2010, facevano prima a scrivere il nome, e guarda caso proprio da quando lavorano quei due specialisti. Per il senatore questore Benedetto Adragna tutto si è svolto nella norma. Segnalo invece che anche oggi i dati della Coldiretti registrano un calo brusco, e questo riguarda più la crisi, del crollo degli acquisti di pesce, dall'8% in meno delle vongole al 9% in meno dei calamari e il 10% in meno per le alici, in media meno 3,5%. E in calo anche tutti gli altri generi di pesci, saranno contenti i pesci dei nostri mari. In aumento solo le trote, plurale, più 14%, e il salmone più 14%. E un'ultima notizia, e poi andiamo sul resto della programmazione. Tra due giorni non ci sarà più cibo per gli animali dello zoo di Napoli, da un anno e mezzo è in amministrazione controllata, e quindi sono i dipendenti della struttura a lanciare l'allarme. Fieno, frutta e tutte le altre derrate alimentari sono quasi finite. Io non so, su un paese. E poi i 70 dipendenti saranno licenziati se entro il 31 gennaio non vi sarà un accordo, vista la proroga concessa dal tribunale. E incerto sarà anche il futuro degli animali dello zoo di Napoli. Anche questo abbiamo letto, partiamo con le altre notizie del giorno, chiaramente in attesa della cerimonia di insediamento di Barack Obama. Allora, mentre a Capitol Hill stanno iniziando i primi passaggi della cerimonia, perché vedrà poi il giuramento di Barack Obama, ripeto, l'ha già fatto ieri perché era obbligato a farlo il 20, ma la cerimonia ufficiale formale è quella di oggi. In questo momento c'è il saluto formale del senatore democratico di New York, Charles E. Schumer. Io vorrei restare sui temi internazionali, ma di carattere europeo, e saluto e ringrazio per averci aggiunto in collegamento il direttore del Centro per gli Studi di Politica Europea di Bruxelles, Daniel Gross. Buonasera, direttore. Buonasera da Bruxelles. Allora, l'abbiamo chiamata in quanto osservatore neutrale. Insomma, lei è rimasto sorpreso da questo attacco durissimo del Financial Times a Monti. Io avevo capito che Monti fosse anche l'espressione della comunità finanziaria, alcuni lo criticano per questo, internazionale, britannica. Dice: non è l'uomo giusto per guidare l'Italia, riforme modeste fino all'irrilevanza, lo spread è creato grazie a Mario Draghi, e poi addirittura un richiamo nel finale dell'editorialista che è Wolfgang Münchau, che dice: la mia ipotesi è che la storia gli consegni un ruolo simile a quello avuto da Erich Brüning, il cancelliere della Germania dal 1930 al 32, che aprì le porte con la sua austerità al nazismo. Allora, sorpreso Gross? Non tanto, perché Wolfgang Münchau prima di tutto non è un'espressione, come dire, né dell'elite europea né anche della piazza finanziaria di Londra. Lui è preoccupato soprattutto per l'austerità, lui pensa che bisogna spendere in una crisi invece di risparmiare, ed è per quello che lui fa questo confronto che secondo me è completamente fuori luogo. Ma quindi se non è espressione del Financial Times, non è espressione di che cosa? Di una politica iper keynesiana? Appunto, nei media anglosassoni per il momento prevale una linea molto keynesiana, bisogna avere una politica monetaria molto accomodante . E bisogna spendere per fare più domanda. Senta, ma... adesso io personalmente sono d'accordo da questo punto di vista, non di spendere di più ma neanche di avere tagli così forti, ma una riflessione sul fatto che tutte le economie europee, Germania inclusa, abbiano frenato nel 2012, in chi difende la linea del solo rigore? Va bene il rigore a mio avviso, ma deve accompagnarci anche politiche di crescita e sviluppo. Un dubbio non viene, secondo lei, che qualcosa si sia sbagliato? Cioè, anche il capo economista Blanchard del Fondo Monetario ha detto abbiamo sbagliato. Cioè, i paesi Spagna, Portogallo, Irlanda non avevano dei deficit messi così male prima della crisi, no? Ma bisogna distinguere, c'erano i paesi che non potevano più finanziarsi sul mercato . E quei paesi c'è poca scelta, si deve stringere la cinghia, perché se no si rischia il collasso finanziario, a questo punto l'economia va giù ancora di peggio. E poi si deve anche prendere atto del fatto che si parla moltissimo di austerità in Europa, ma se si guarda nei fatti, se si guarda il deficit pubblico nella media della zona euro, è calato molto lentamente, meno dell'1% all'anno, ed è diminuito in maniera essenzialmente parallela a quello degli Stati Uniti o anche della Gran Bretagna, per cui non c'è stata veramente questa austerità feroce di cui molti parlano. Qui in Italia sì. Sì, ma in altri paesi c'è stata di poco, e comunque l'Italia non aveva scelta. Con gli spread che andavano verso il 500 e soprattutto il tasso di interesse breve che andava verso l'8%, l'Italia doveva fare qualcosa. Sì, mi sarebbe facile ribattere Grossi, gli spread salivano così tanto perché l'Europa non era pronta a difendere neanche la Grecia, l'Europa del Nord, Germania e altri paesi del Nord. Il continuo tentennamento ha fatto scattare il gioco. Bene, dopo la Grecia chi ci sarà? Ci sarà il Portogallo, dopo il Portogallo la Spagna, dopo la Spagna l'Italia. Cioè, l'Italia fino a maggio del 2011 aveva lo spread a 180, fermo così da 3-4 anni, no? Cioè, non è stato l'errore nel dire fino a che non è stato più possibile la Grecia, vediamo se la salviamo, vediamo se resterà nell'euro a dare linfa e comunque terreno, territorio per la speculazione, per scommettere sull'euro? Perché non è che l'Italia fosse peggiore nel 2011 rispetto al 2010, no? Ma quello che cambia, quello che può cambiare molto repentinamente, è l'appetito del mercato per il rischio. Quello non è solamente dovuto ai eroi di politica, e ce ne sono stati, ma questo è ogni paese, qualunque paese che sceglie di vivere con un debito pubblico così alto come quello dell'Italia, vive con il pericolo. Sì, d'accordo. Un'altra domanda però grossa, ma secondo lei chiedere tutti questi sacrifici e strette nel momento in cui l'economia è in recessione, non è la regola, non dovrebbe essere quando l'economia va bene metti a posto i conti e quando l'economia va male cerchi, come ha fatto l'America ampiamente, che non mi sembra un paese socialista, e cerchi di aiutarla, di stimolarla? Esattamente, dovrebbe essere così, soprattutto per paesi che non hanno problemi di rifinanziarsi come gli Stati Uniti. Ma l'Italia non ha messo i suoi conti in ordine quando il tempo erano buoni, e poi si trova in una situazione molto, come dire, critica, in cui anche se era un errore della politica di altri paesi, poteva metterla in ginocchio molto facilmente. Poi, se posso aggiungere, abbiamo visto altri paesi nella periferia dell'Europa, cioè i paesi baltici, che hanno fatto un aggiustamento molto molto forte, anche senza avere una crisi finanziaria e senza esserci costretti dall'Unione Europea. E se uno guarda con 3 o 4 anni di distanza, si vede che per loro la crisi è finita, la crescita torna. Naturalmente c'erano 2 o 3 anni difficili, molto più difficili di quelli che lo sono adesso per l'Italia, ma alla fine l'economia sia ripresa anche più velocemente. Sì, faccio notare che il Giappone e gli Stati Uniti comunque continuano con politiche espansive, ma mi dica una cosa, Gross, io chiaramente non sono d'accordo perché tutta questa stretta sta precipitando l'Europa in una recessione ancora più forte di quella dovuta e anche la Germania ne paga le conseguenze, ma oggi l'IFO, l'istituto tedesco, ha detto che la Germania ha una bilancia commerciale troppo alta, oltre il 6% del PIL è considerata troppo, mettere a rischio la stabilità europea. Ma un paese che esporta così tanto non dovrebbe avere anche, se stiamo tutti quanti assieme nella stessa casa, l'obbligo morale di importare, cioè di consumare un po' di più? No? Perché non è che possiamo chiedere di consumare agli italiani, agli spagnoli, ai portoghesi, agli irlandesi, i greci, lasciamoli stare. Cioè, una volta che tu chiedi il rigore e l'austerità, è chiaro che la gente consuma di meno, aumenta la disoccupazione, calano i consumi, riaumenta la disoccupazione, ricalano i consumi e va buo. Diciamo che secondo lei questa è la ricetta, ma chi è che deve consumare? Potrebbero fare uno sforzo i tedeschi con l'economia che hanno, no? Per riequilibrare. Sì, ma naturalmente sarebbe molto meglio se i tedeschi consumassero di più e anche loro stessi magari starebbero meglio. Sono totalmente d'accordo. Il problema è come raggiungere questo scopo. Perché anche se il governo tedesco spende di più, l'esperienza ci ha insegnato che i tedeschi poi risparmiano ancora di più, perché hanno paura del deficit. Per cui una politica fiscale, anche se espansiva sulla carta in Germania, spesso ha poco effetti sull'economia tedesca. E qualche volta i governi non sono capaci di fare le cose che vorrebbero fare. Un'ultima domanda per lei, al di là di come sarà l'esito politico delle elezioni italiane, secondo lei ci sono i margini perché un prossimo Presidente del Consiglio italiano vada in questo modo, in questo caso assieme anche ad Hollande, quindi con un asse italo-francese, a dire va bene tutto, va bene il fiscal compact, va bene continuare a mettere in riga i conti pubblici, però abbiamo bisogno di più tempo perché sennò in questo momento, in questo modo, rischiamo di non centrare neanche l'obiettivo, perché se tu deprimi troppo il PIL, siccome il deficit ha un rapporto sul PIL, deficit-PIL, se ti si abbassa troppo il numeratore, tu puoi tagliare quanto vuoi, ma sarai sempre superiore al 3%. Cioè c'è un margine, secondo me, politico, per un asse politico che, non dico imponga, ma insomma, faccia pressione sulla Germania per ammorbidire quelli che sono i conti pubblici. Cioè raggiungere il pareggio un anno dopo non cambia niente, ma può cambiare qualcosa per i disoccupati, per i consumi. C'è questo margine o no? Penso che sia pochissimo, perché il trattato di fiscal compact è stato fatto anche per quello, di non dare molto spazio a queste pressioni politiche. Ma i trattati si possono cambiare, sono trattati politici, no? I trattati si possono cambiare, ma una volta che l'hanno sottoscritto e ratificato non so quanti, diventa molto difficile. E poi io dubito che l'Italia alla lunga vive meglio con deficit più alti. No, ma e quindi un margine per gli euro bond, per obbligazioni di carattere europeo, per investimenti di carattere europeo, non dei singoli paesi? Perché i tedeschi restano contrarissimi. Euro bonds in generale, per la spesa pubblica in generale, non penso che ci saranno mai. Bond per investimenti comuni sono tutt'altra cosa, ma avranno sempre una rilevanza veramente minore rispetto all'economia europea nel suo insieme. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, mentre a Capitol Hill a Washington ha giurato Jimmy Biden, quindi il numero due, il vice di Obama. Tra poco entreremo nel vivo, nella parte del giuramento e poi dell'intervento, che il giuramento è interessante come momento formale, ma a noi interessa poi anche e soprattutto cosa dirà Barack Obama nel suo primo discorso della nuova presidenza. Rapidamente subito allora la borsa. Milano positiva, oggi l'America chiusa per il Martin Luther King Day, più 0,44% Milano, più 0,60% Parigi, più 0,60% Francoforte, Londra più 0,40%, bene Fiat, più 4% quasi Fiat come auto e più 3,75% Fiat Industrial, quindi camion e trattori, bene Buzzi Unicem più 2,20%, Prismian più 1,90%, Pirelli più 1,70% come Exor, Parmalat più 1,60 come Snam, Banco Popolare più 1,40 come UbiBanca e anche Unicredit. Chi va male oggi invece? Telecom Italia meno 2,70 e poi Ferragamo Realizzi meno 0,90%. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Rapidamente, perché stiamo aspettando appunto la diretta con Washington, con Obama, non con lui personalmente, diciamo. Però Telecom da un lato e dall'altro invece tutto il gruppo Fiat. Telecom darà i conti il prossimo 7 febbraio, è scattato un po' il conto alla rovescia, ma soprattutto c'è la diffusione in borsa tra gli operatori, la convinzione che la cedola possa essere ridotta, risicata, addirittura quasi azzerata. Quest'oggi a lanciare l'allarme è stata una banca d'affari, Morgan Stanley, che ha ipotizzato che la cedola sia appunto dimezzata rispetto a quella dello scorso anno. È un'ipotesi che peraltro trova terreno fertile in borsa, e per questo i titoli hanno perso quasi il 3%. Allora, questo ricorda Telecom Italia e anche Fiat. Il lusso oggi ha avuto un po' di realizzi? Fiat non ho risposto. Sì, no, scusami, perché stavamo guardando un attimo la diretta e infatti ti volevo chiedere su Fiat. Fiat non ho risposto, i titoli si sono infiammati soprattutto nel pomeriggio, Fiat sia Fiat che Fiat Industrial. Un'agenzia di stampa ha indicato che la Consob sta verificando che alcuni fondi hanno delle posizioni corte, il che significa che probabilmente sono scattate delle ricoperture, e infatti anche a parere dei trader che abbiamo sentito si tratta per lo più di acquisti tecnici. Comunque i titoli sono volati sia Fiat che Fiat Industrial quasi del 4% entrambi. Di nuovo in diretta Eleonora Micheli, il lusso oggi abbiamo detto, ma prema fine volata ed è volata anche la Camfin che controlla il gruppo Pirelli. Sì, il lusso oggi ha preso diciamo un po' fiato dopo la buona impostazione dei giorni scorsi, perché la Svizzera Richemont ha pubblicato i conti degli ultimi 3 mesi in crescita, più 5% i ricavi, ma si è notato un rallentamento delle vendite in Asia, e quindi questo ha pesato ad esempio su Ferragamo, visto che Ferragamo ha aperto e continua a aprire numerosi negozi in Cina. Per quanto riguarda invece Camfin, in questo caso nel fine settimana Repubblica ha scritto che ci sono trattative in corso tra la finanziaria e il fondo del Qatar, che sarebbe interessato a rilevare una quota, ecco perché le azioni si sono infiammate, più 17%, tra l'altro è da settimane ormai che in una battuta ho bisogno, perché sta per iniziare Obama, anche di Premafin. Premafin, nei giorni scorsi un dirigente di Unipol ha detto che è stata depositata presso la nuova istituzione che controlla tutte le assicurazioni la richiesta di fusione a 4, ricordiamo Premafin, Milano Assicurazione, Unipol e Fondiaria Sai, e questo ha dato in là gli ordini in acquisto su tutti e 4 i titoli, ma in particolare su Premafin, anche perché è quello meno liquido. Morale, i titoli sono volati del 21%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Quello che è l'applauso di James Taylor, che ha appena finito di suonare, adesso dovrebbe esserci, sta salendo, si ragionava accanto a me, Obama sul palco per il giuramento. Sergio. Allora, Obama sta per giurare, 44esimo presidente degli Stati Uniti. Prima di lui ha già giurato il vice Joe Biden, e c'è stata anche l'invocation da parte di Merle Evers Williams, ex presidentessa della NAACP, e anche il saluto formale del senatore democratico di New York Charles E. Schumer. Dovrebbe essere proprio questo il momento in cui Barack Obama si avvicina al palco. Vediamo la famiglia di Obama, le figlie Sasha e Malia, la moglie Michelle. Per favore alzi la mano destra e ripeta dopo di me. Sentiamo da Sky. Io, Barack Hussein Obama, giuro solennemente che svolgerò con fede il compito di Presidente degli Stati Uniti al meglio delle mie capacità, preservando, proteggendo e difendendo la Costituzione degli Stati Uniti, e che Dio mi aiuti. Congratulazioni, signor Presidente. Ecco, Obama ha giurato, in realtà aveva già giurato ieri, come ricordavamo Sergio, perché la legge prevede che giuri il 20, non il 21. Adesso sta abbracciando chiaramente la famiglia a Capitol Hill, molto freddo a Washington, ma insomma tutta la piazza piena. Ha giurato su due Bibbie, sì. Una è quella di Abraham Lincoln, dove giurò anche 4 anni fa, l'altra invece? Invece l'altra è di Martin Luther King, e non è forse neanche un caso che oggi ricorra proprio la festività, il Martin Luther King Day. Ieri Obama, ricordiamo che ha giurato sulla Bibbia di famiglia della moglie, di Michelle, della famiglia Robinson. E in questo momento le immagini che arrivano da Washington ci fanno vedere gli spari, i colpi di cannone a salve che salutano il giuramento pubblico, perché quello reale in realtà, come dicevamo, c'è stato ieri. Le salve di cannone salutano Barack Obama di fronte a una folla sterminata, si parla di 600-800.000 persone, ben inferiore a quella che c'era 4 anni fa, si parlò allora di quasi 2 milioni, ma allora c'era anche un'enorme aspettativa verso quegli ideali di cambiamento e di speranza che Obama aveva portato con sé alla Casa Bianca dopo 8 anni di George Bush. In questo momento abbiamo anche l'annuncio di quello che sarà il discorso di Barack Obama, discorso che sarà probabilmente più ideale che pratico o pragmatico, perché ricordiamo che sarà il 12 febbraio lo discorso sullo Stato dell'Unione di Barack Obama. Obama sta approcciando il podio, sentiamo allora sempre da Sky con la traduzione il suo discorso al paese. Ancora qualche istante, discorso che verterà molto anche con i rapporti con il congresso, oltre che alla politica estera, quindi di carattere anche e molto economico. Grazie. Sentiamo Barack Obama. Thank you so much. Grazie tante. Vice President Biden, il vicepresidente Biden, Mr. Chief Justice, membri del Congresso degli Stati Uniti, distinguished guests, ospiti and fellow citizens, e miei concittadini. Each time we gather, ogni volta che ci riuniamo per inaugurare un presidente, siamo testimoni di una forza durevole della nostra Costituzione. Affermiamo la promessa della nostra democrazia e ricordiamo ciò che lega questa nazione, non il colore della nostra pelle o le nostre fedi o le origini dei nostri nomi. Ciò che ci rende eccezionali, ciò che ci rende americani, è l'idea articolata in una dichiarazione fatta più di 2 secoli fa. Sono queste verità così evidenti che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono senza dubbio creati dal loro creatore con diritti inalienabili. La nostra vita, la nostra libertà e la ricerca della felicità. Oggi noi continuiamo un viaggio senza fine per capire i significati di queste parole con le realtà del nostro tempo. La storia ci insegna che anche se queste realtà ci sembrano evidenti, non vengono spesso rispettate. La libertà è un dono di Dio e deve essere messa al sicuro qui dagli esseri umani, dalle persone che abitano la terra. I patrioti del 1700 hanno lottato contro il ritorno di un re e si sono opposti ai privilegi di pochi e ci hanno dato una repubblica, un governo per e formato dalla gente, e hanno chiesto a ogni generazione di portare avanti questo sogno. E per più di 200 anni l'abbiamo conservato attraverso il sangue. Sappiamo che nessuna unione fondata sull'uguaglianza, sulla libertà può basarsi sulla schiavitù. Abbiamo fatto qualcosa di nuovo e abbiamo fatto passi avanti insieme. Insieme noi determiniamo che un'economia moderna ha bisogno di autostrade e strade per portare avanti il commercio, scuole e università per addestrare i nostri studenti. Oggi scopriamo che un mercato deve assicurare la competizione e un'equità. Insieme sappiamo che come grande nazione dobbiamo aiutare i vulnerabili e dobbiamo aiutare le persone dai pericoli e dalla sfortuna. Attraverso tutto questo dobbiamo evitare lo scetticismo e non dobbiamo pensare che tutti i problemi possano essere risolti soli dal governo. Le nostre aziende continuano sul duro lavoro e sulle responsabilità personali. Questa è una costante del nostro carattere. Sappiamo sempre che quando i tempi cambiano, dobbiamo cambiare anche noi. La fedeltà verso i nostri principi fondamentali hanno bisogno di nuove risposte a nuove sfide. Dobbiamo preservare la nostra libertà fondamentale, ma abbiamo bisogno anche di un'azione collettiva. Per gli americani, che non possono rispondere alle richieste del mondo moderno, nessuno può insegnare ogni cosa ai nostri figli. Una persona da sola non può portare avanti ricerche e nuovi posti di lavoro. Ora, più che mai, dobbiamo fare queste cose insieme, come una nazione sola e un popolo solo. Questa generazione di americani è stata testata da crisi che ancora non sono state risolte e che mettono a dura prova la nostra forza. Un decennio di guerra adesso è finito. Una ripresa economica è iniziata. Le possibilità degli americani e dell'America sono senza limiti perché abbiamo tutte le qualità che questo mondo richiede. La diversità e l'apertura mentale, una capacità di rischiare e il dono dell'invenzione. Concittadini americani, noi siamo fatti per questo momento e lo coglieremo. E lo coglieremo insieme. Per noi, il popolo, capiamo che il nostro paese non può avere successo se solo poche persone lavorano bene. Noi crediamo che la prosperità americana deve basarsi sulle spalle e sul lavoro di una classe media forte. Ogni persona deve trovare orgoglio nel proprio lavoro. Lo stipendio di ogni famiglia deve essere equo. Anche una persona che è nata in un quartiere povero deve avere le stesse possibilità di ogni altra persona perché è americana, perché è libera e perché è uguale non solo davanti agli occhi di Dio ma anche davanti a tutti noi. Sappiamo che i nostri programmi non sono adeguati ai tempi, quindi dobbiamo trovare nuove idee, nuove tecnologie per reinventare i nostri sistemi, le nostre scuole e per dare ai nostri cittadini le capacità per apprendere di più, per imparare di più e per assumere di più. I mezzi cambieranno, ma i nostri scopi rimangono. Una nazione che premia la determinazione e l'organizzazione di ogni singolo americano. Questo è ciò di cui questo momento ha bisogno. Questo è ciò che dà veramente un significato al nostro credo. Noi, il popolo, crediamo ancora che ogni cittadino meriti una sicurezza, una dignità. Noi dobbiamo fare scelte molto difficili di ridurre il costo della sanità e di ridurre il nostro deficit, ma rifiutiamo il credo che l'America deve scegliere tra la cura delle nostre generazioni che hanno costruito questo paese e la cura delle generazioni che costruiranno questo paese. Ricordiamo le lezioni del passato, quando ci sono stati anni di tramonto, di povertà, in cui la speranza non era per pochi o per i più fortunati. In ogni momento ci sono state persone colpite da tempeste, da uragani, o che hanno perso il lavoro. Gli impegni che facciamo l'uno con l'altro attraverso Medicare, Medicaid e la sicurezza sociale ci rafforzano, sono iniziative che ci rafforzano come paese. Non ci rendono una nazione, ma ci permettono di assumere dei rischi che rendono questo paese grande. Noi, il popolo, crediamo ancora che i nostri obblighi come americani non siano solo verso noi stessi, ma verso gli altri. Risponderemo alle minacce del cambiamento climatico, sapendo che non facendolo metteremo a rischio le future generazioni, i nostri figli. Alcuni negano ancora l'importanza della scienza, ma nessuno può evitare l'impatto degli incendi, degli uragani, delle tempeste, della siccità. Il percorso verso fonti di energia sostenibili sarà lungo e a volte difficile, ma l'America non può sottrarsi a questa transizione, dobbiamo guidarla a questa transizione. Non possiamo permettere ad altre nazioni di ottenere queste tecnologie. Non dobbiamo lasciarle in mano ad altre nazioni. Ecco come manterremo la nostra vitalità e il nostro tesoro nazionali. Una nuova forza. Ecco come preserveremo il nostro pianeta che ci è stato dato da Dio. Ecco ciò che significa. Ecco qual è il credo dei nostri genitori, dei nostri avi, noi. Il popolo. Crediamo ancora che la nostra sicurezza, la nostra libertà non abbiano bisogno di un lavoro e di un premio. I nostri uomini e donne coraggiosi in uniforme che affrontano le fiamme della battaglia mostrano sempre coraggio e grandi capacità. I nostri cittadini che pensano a coloro che hanno perso non verranno mai ripagati dal prezzo di questa libertà, ma la conoscenza del loro sacrificio ci renderà sempre vigili da coloro che ci minacciano. Ma coloro che vogliono la pace, non la guerra, dobbiamo pensare alle persone che affrontano queste battaglie tutti i giorni. Difenderemo il nostro popolo e i nostri valori attraverso la giustizia. Noi mostreremo il coraggio e risolveremo le differenze con le altre nazioni con pace, con metodi pacifici. L'America rimarrà l'ancora di tutte le alleanze del mondo e noi rinnoveremo queste istituzioni che ci aiutano a risolvere le crisi. C'è tanto in gioco in questo mondo e noi siamo una nazione potente e sosterremo la democrazia in Africa, in Asia, in Medio Oriente, perché è nei nostri interessi e ci obbligano a lottare a fianco di coloro che vogliono la libertà, e saremo una fonte di speranza per i poveri, i malati, le persone emarginate, non per carità, ma perché la pace dei nostri tempi richiedono questi principi, la tolleranza, l'opportunità, la dignità umana e la giustizia. Noi, il popolo, dichiariamo oggi che le verità più evidenti, cioè che noi siamo stati creati tutti uguali, è la guida che ci guida, è la stella che ci guida. Ed è la stessa stella che ha guidato gli uomini e le donne le cui impronte seguiamo oggi. e che ci fanno capire che non camminiamo da soli. La libertà degli individui è legata alla libertà di ogni anima sulla terra. È il compito della nostra generazione di portare avanti questo compito e di portare avanti ciò che hanno iniziato i pionieri. Il nostro compito non sarà finito fino a quando la gente che lavora non avrà un premio adeguato ai loro sforzi. Il nostro viaggio non sarà finito fino a quando i nostri fratelli e le sorelle saranno considerati in modo diverso davanti alla legge. Dobbiamo essere tutti uguali perché siamo stati creati tutti uguali. Il nostro viaggio non sarà finito fino a quando un cittadino dovrà aspettare ore per esercitare il suo diritto di voto. Il nostro viaggio non sarà completo fino a quando non troveremo un modo più intelligente per aiutare gli immigrati che vedono ancora l'America come terra di opportunità e fino a quando i nostri ingegneri, i nostri laureati non troveranno un posto di lavoro nel nostro paese per esprimere le proprie capacità. Il nostro viaggio non sarà finito fino a quando tutti i nostri figli, dalle strade di Detroit fino a Newtown, non sapranno che abbiamo cura di loro e che sono al sicuro da ogni pericolo. Questo è il compito della nostra generazione, cioè di rendere questi diritti, queste parole, questi valori, una vita di libertà e la ricerca della felicità reale per ogni americano. Dobbiamo essere fedeli a queste parole, a questo documento. Non significa che tutti dobbiamo trovare le libertà nello stesso modo, dobbiamo seguire lo stesso percorso per la ricerca della felicità. Il progresso non ci obbliga a creare dibattiti ogni volta, ma ci chiede di agire nel nostro tempo. Le decisioni sono davanti a noi e non possiamo permetterci di ritardare. Non possiamo fare errori di principio. Non possiamo fare i dibattiti politici. Non dobbiamo portare avanti dibattiti senza fine. Dobbiamo agire. Dobbiamo agire sapendo che il nostro lavoro sarà imperfetto. Dobbiamo agire sapendo che le vittorie di oggi saranno solo una porzione e saremo qui altri 4 anni o altri 400 anni o altri 4.000 anni sapendo che il nostro spirito andrà avanti. Concittadini americani, il giuramento che ho fatto davanti a voi oggi è stato fatto da altre persone che hanno servito in questa capitale, davanti a Dio e davanti al paese, non davanti a partiti o fazioni, e dobbiamo svolgere con fede questo compito durante il nostro servizio. Ma le parole che ho pronunciato oggi non sono così differenti da quelle che pronuncia un soldato ogni giorno o un immigrato che realizza i suoi sogni. Il mio giuramento non è diverso dalle richieste che facciamo oggi davanti alla nostra bandiera con orgoglio. Sono le parole dei cittadini e rappresentano la nostra più grande speranza. Voi ed io siamo cittadini e abbiamo il potere di creare il percorso del nostro paese. Noi come cittadini abbiamo l'obbligo di formare i dibattiti del nostro tempo, non solo con i voti che diamo, ma anche con le parole che diciamo a favore delle nostre idee, dei nostri ideali. Tutti noi dobbiamo andare avanti e portare avanti questo compito solenne, con uno sforzo comune, con uno scopo comune, con passione e impegno. per rispondere alle richieste della storia, per affrontare un futuro. Dio vi benedica e Dio benedica gli Stati Uniti d'America. E con la parola, il rituale classico, si è chiuso il discorso del giuramento di Barack Obama che abbiamo ascoltato in diretta. Alcuni dicevano: ma perché ci fate ascoltare Obama? Perché gli Stati Uniti d'America, volenti o nolenti, restano la prima economia del pianeta e dal punto di vista della politica estera ampiamente distanti da quello che è il ruolo della Cina. Comunque, se ragionava, restiamo sui temi di politica estera, perché il discorso è molto ispirato, molto retorico, come sempre è quello di fronte a 600-700.000 persone, questa volta a Capitol Hill, però un discorso più sbilanciato, come era immaginabile, sui valori fondanti, oltre che unenti, gli Stati Uniti d'America. L'accenno c'è stato e ha preso anche una buona parte del suo intervento ai rapporti con gli altri, non solo all'interno degli Stati Uniti. Sì, esatto, all'interno di questo discorso, che di fatto è stato un invito all'azione, sono gli ultimi 4 anni, il secondo mandato di Barack Obama, quindi sono gli anni in cui Obama avrà più briglia sciolta, e quando ha detto dobbiamo agire, è un invito vero e proprio a seguire un'agenda precisa e portarla fino in fondo senza troppi condizionamenti. Deve essere rieletto, chiariamo, esatto. Per cui non ha i limiti, il pudore, anche i tentennamenti che ha avuto magari nel primo mandato. Ecco, ha toccato il tema di politica estera, in realtà ha toccato anche il tema climatico, che è qualcosa di interessante, perché ricordiamo che 4 anni fa a Copenaghen era stato molto molto più low profile, ha tenuto un profilo molto più basso sul clima, ora invece può andare più deciso anche sul tema della lotta al cambio climatico, ma è interessante notare come non abbia di fatto fatto riferimento all'Europa. Ha parlato di Africa, ha parlato di Medio Oriente, ha parlato di Asia, ma non ha toccato il tema degli alleati europei, e questo è qualcosa che Obama ha già fatto capire nella intervista che ha rilasciato a Time, quando gli è stata dedicata l'ultima copertina di Uomo dell'Anno a dicembre. Ha parlato del ruolo che gli Stati Uniti dovranno giocare con la Cina, del ruolo che dovranno giocare anche all'interno dei paesi della Primavera Araba, non ha mai toccato il tema europeo. Non che questo sottintende il fatto che ci sia un disinteresse americano per l'Europa. Ma casomai siamo sempre più periferia dell'impero? È anche vero, diciamo che le scelte che ha fatto Obama, cioè aver nominato John Kerry segretario di Stato e Chuck Hagel segretario della difesa, che sono due politici comunque con un particolare feeling con l'Europa, lasciano sottintendere che il rapporto ci sarà. Anzi, gli Stati Uniti vogliono un'Europa più forte, e l'hanno detto chiaramente alla Gran Bretagna, che si vuole defilare dall'Europa, ha detto dovete stare in Europa, dovete stare in un'Europa coesa e forte, perché di questo abbiamo bisogno. Però è chiaro che le priorità americane, con questo secondo mandato di Obama, guardano molto, molto di più all'Asia, all'Africa e ai paesi arabi. C'è un ampliamento del raggio d'azione, questo emerge anche da questo discorso. Sì, non so da europeo se essere così contento che Obama abbia tralasciato l'Europa, però tu ricordavi appunto i segretari di Stato hanno in realtà un rapporto, soprattutto John Kerry, quindi il ministro degli esteri americano, hanno un rapporto molto molto stretto con l'Europa. Faccio notare che, visto che parliamo di economia e anche di sprechi, di costi in questo programma, sono stati fatti al risparmio anche i festeggiamenti. Lo staff di Obama ha infatti tagliato fino al 50% il prezzo di alcuni eventi per raggiungere l'obiettivo dei 50 milioni di dollari per coprire le spese, e poi addirittura il prezzo del ballo ufficiale è sceso da $1,000 a $500, ma insomma, a differenza di 4 anni fa, molte difficoltà a reperire i soldi, tant'è che Obama ha accettato, cosa che non fece 4 anni fa, anche le donazioni di grandi aziende, tetto massimo 250.000 euro, però ha accettato i soldi della Coca-Cola, della Bank of America, di AT&T e della Federal Express. C'è il traffico, poi mi vorrei collegare con Mario Platero, se riusciamo a prendere la linea con Washington, che è molto chiaramente affollata in questo momento, per la parte che riguarda invece i temi di politica interna, in primo luogo tutti i richiami sull'uguaglianza, la libertà, la redistribuzione, il ruolo della classe media e insomma i richiami alla riforma, al Medicare, fatti. Non dobbiamo scegliere tra curare i vecchi o garantire un futuro di cura per i giovani, e anche il rapporto che si è visto sotto traccia con il Congresso, c'è un braccio di ferro in corso sul cosiddetto fiscal cliff molto, molto alto. Faccio notare che, così come si aggiornava, ricordava la diversità dei nuovi segretari di Stato, del nuovo segretario di Stato, vi è una diversità molto forte anche nel nuovo segretario del Tesoro, cioè il ministro dell'economia, perché Jack Lew non viene da Wall Street, non è come Timothy Geithner, conosce meglio i meccanismi parlamentari, meno bene la finanza, diciamo, a stelle e strisce americana. The people, noi, il popolo americano, più volte ripetuto da Barack Obama in questo intervento. Abbiamo ascoltato dal nostro Sergio Nava anche che cosa non ha detto, cioè non c'è un riferimento esplicito all'Europa. Vorrei invece con Mario Platero in collegamento da Washington sentire tutta la parte che riguarda i rapporti interni, questo forte richiamo alla anche retorico all'uguaglianza, alla libertà, alla redistribuzione, al ruolo della classe media, alla difesa del Medicare. E i rimandi continui allo scontro che è in corso con il Congresso. Mario, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Beh, devo dire un discorso potente, ispirato, che ha toccato un po' tutte le note che danno emozione agli americani e devo dirti, caro Sebastiano, anche ai non americani, perché questa cioè, sei emozionato anche che tu. Abbiamo, beh, direi di sì, Sebastiano, perché vedi, e questa liturgia che si ripete, ed è questa la cosa che mi colpisce, ormai da oltre 200 anni a Washington, sempre la stessa, sempre uguale, credo che forse dovrebbe darci molte lezioni, perché sì, questo il valore fondamentale, come ha detto Barack Obama, è il valore di un'idea di 200 anni fa, l'idea dell'uguaglianza, ed è stato attorno a questo che poi ha costruito tutto il suo discorso, grande retorica, ha parlato delle strade che ancora si devono percorrere, soprattutto ha parlato dell'unità, e qui è da una parte il messaggio politico ai repubblicani, lavoriamo insieme, il messaggio politico agli americani, lavoriamo insieme. A un certo punto ha detto il presidente, io ho giurato poco fa davanti a Dio e al paese, non davanti a un partito, a una fazione. È chiaro, siamo nella retorica, siamo nel giorno dell'inaugurazione, però un minimo di sviluppo in questa direzione lo abbiamo già visto, Sebastiano, perché quando c'è stato il voto per l'aumento delle aliquote, quando Barack Obama ha vinto la sua battaglia contro i repubblicani per la prima parte del fiscal cliff, beh, è stato un voto bipartisan, per la prima volta abbiamo visto una maggioranza bipartisan, restano molte sfide, grande nota di ottimismo e una notizia che è giunta, come si dice, on the side, ma che era rassicurante. Mercoledì hanno annunciato, oggi i repubblicani, ci sarà il voto per la proposta di legge che rimanderà di 3 mesi la scadenza del tetto sul debito. Quindi comprano tempo anche al Congresso americano, non riescono a mettersi d'accordo, però cercano di, appunto, di non precipitare nel precipizio fiscale, quindi 3 mesi di tempo in più. Un'ultima domanda, Mario Platero. È vero, molta retorica, molto ispirato, molti richiami ai principi fondanti e unificanti, lo spirito americano. A me però è sembrato, per quel poco che ci capisco, anche un Obama che, non dovendo più essere rieletto, non potendo essere più rieletto, si tira fuori anche qualche sassolino dalla scarpa e dice, insomma, noi siamo per la redistribuzione, per l'uguaglianza, per l'ultimo degli afroamericani che possa avere le stesse possibilità del più ricco. Insomma, è un Obama che torna sui temi forse che aveva un po' annacquato nel corso dei primi 4 anni, dovendo poi cercare di essere rieletto. Sì, beh, direi hai assolutamente ragione, Sebastiano. L'altra parte del messaggio politico è legato alla sua agenda. E la sua agenda è un'agenda decisamente democratica, e questo forse non sarà piaciuto ai repubblicani, ma lo hai già detto tu, ha parlato di uguaglianza sui salari, ha parlato di uguaglianza davanti alle prospettive di poter far carriera, di poter crescere, di poter accedere e permettersi l'università, e davanti alla possibilità di poter votare in tempo, insomma ha sfiorato un po' tutte le tematiche di fondo e ti ripeto, come dicevo all'inizio, il tema centrale è stato quello dell'uguaglianza. Ed è su questo che poi ha elaborato. Obama sarà più aggressivo in questo sì. Suo secondo mandato, ma credo che esaurirà i 3 o 4 obiettivi che si propone di raggiungere, e cioè eliminare il disavanzo, comunque contenerlo, tagliare le spese, proseguire lungo la strada della crescita, riformare la legge sull'immigrazione, passare una legge per il controllo delle armi nel primo anno e mezzo di questo suo secondo mandato, e poi comincerà a entrare in lame duck, e come sempre succede con i presidenti al secondo mandato, si occuperà molto di politica estera. Gli Stati Uniti devono riaffermare la loro leadership nel suo primo mandato, un po' l'hanno persa, e questa è l'altra grande missione del Presidente. Ecco, nel ringraziare Mario Platero in collegamento con noi da Capitol Hill a Washington, dove pochi minuti fa è terminato il giuramento, quello ufficiale, di Obama, vorrei concludere con Sergio Nava proprio su questo tema. Platero diceva, è un Obama che adesso non ha più niente da perdere, lo dicevo anch'io, quindi tornerà sui suoi temi classici, l'uguaglianza, la redistribuzione, e tirerà dritto molto di più di quanto non abbia fatto nei primi 4 anni. Mario Platero diceva però anche probabilmente chiuderà tutte le pratiche interne nei primi 2 anni e mezzo, poi si concentrerà nella parte finale soprattutto sulla politica estera, che si è un po' appannata. In questa chiave dobbiamo leggere anche la non conferma di Hillary Clinton da un lato, e invece l'affermazione di John Kerry. Ma sulla Clinton in realtà non è ben chiaro ancora perché si sia ritirata o meno. Si è parlato dei suoi problemi di salute, si è parlato della possibilità che si candidi lei stessa tra 4 anni, quindi sicuramente la nomina di John Kerry è una nomina che da un lato mette agli esteri un esperto di politica estera, in particolare un esperto anche di politica europea. Dall'altro, John Kerry, per come lo si conosce, è una persona che non ha un'enorme personalità, sarà probabilmente all'inizio schiacciato molto sulle posizioni di Obama. La politica estera almeno all'inizio la farà la Casa Bianca e quindi Obama stesso. Una cosa importante che prima non ho detto sui rapporti con l'Europa: c'è una prima scadenza molto importante quest'anno, che è la chiusura del negoziato dell'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Europa, e si stima potrebbe sbloccare almeno 2 miliardi di crescita per l'Europa stessa. Quindi c'è già in realtà un negoziato in corso tra le due sponde dell'Atlantico, e sarà sicuramente un primo test tra Europa e Stati Uniti e sulla nuova partnership di questo secondo mandato. E poi c'è anche il tema degli ambasciatori. Se sappiamo che dai tempi di Reagan in poi il 70% dei posti in America di diplomatici sono di carriera, il 30% di nomine politica. Da noi il posto di David Thorne potrebbe essere ambasciatore americano in Italia, potrebbe essere preso da Zita Raji, filantropa, sono tutti grandi finanziatori, come sempre avviene della campagna elettorale, oppure il romanziere Robert Mailer Anderson, oppure l'avvocato di Washington John R. Phillips. Phillips è l'unico con legami con l'Italia, i nonni infatti si chiamavano Filippi. Grazie anche a Sergio Nava. Noi restiamo in tema di notizie, di quello che domani sarà anche la prima pagina e richiamo in prima pagina del Sole 24 Ore, restiamo in tema di editoria. Editoria però è anche economia, perché oggi Pearson, che è la casa, è il gruppo che controlla il Financial Times, ha lanciato un avviso di utili in calo e ha messo le mani avanti anche sul 2013. Ha detto infatti l'editore del Financial Times di aver rivisto al ribasso tutte le stime di utile precedentemente diffuse. Avrà un utile operativo comunque buono, comunque alto, 935 milioni di sterline, contro però i 942 milioni di sterline previste. Un ulteriore segnale, cioè, della difficoltà in cui perfino un colosso come Pearson viaggia, difficoltà che abbiamo raccontato, parliamo infatti spesso anche di noi come, diciamo, gruppi editoriali. Oggi parliamo però di noi anche come, proprio come Sole 24 Ore. Eh sì, perché online il nuovo sito internet del Sole 24 Ore, che riguarderà tutte le attività del gruppo, quindi il quotidiano in primo luogo, ma anche con il contributo dell'agenzia di stampa Radio Cori Sole 24 Ore e chiaramente anche di Radio 24. Ne parliamo con il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Buonasera, direttore. Buonasera a voi. Direttore, qual è la prima novità che vedrà il lettore / a questo punto internauta cliccando sul sito del Sole 24 Ore? Che il sito sarà talmente nuovo da assomigliare sempre di più al nostro giornale. La veste grafica è nuova, il colore è identico a quello del giornale, le sezioni classiche ci sono tutte, ampiamente consultabili: finanze e mercati, imprese e territori, norme e tributi. Ci sono due sezioni nuove, documenti e strumenti di lavoro, che è come portare la storia del Sole 24 Ore online, i testi commentati, interpretati, tutto ciò che aiuta, nel proprio lavoro l'imprenditore, l'uomo d'affari, il libero professionista noi useremo dire anche il giovane ricercatore, lo studente universitario, chi lavora all'estero, perché oggi sempre di più la fame, i bisogni coincidono con i problemi dell'economia e quindi la fame di rigore informativo assomiglia sempre di più a un'esigenza primaria. Ecco, ci sarà una parte a pagamento, immagino una parte gratuita, e soprattutto, se posso permettermi, non una critica ma un'osservazione, nel passato tutta l'editoria ha teso un po' a differenziare quello che era il contenuto del sito con quello che era il contenuto del giornale delle volte, no? Mentre mi sembra che le due cose stiano convergendo sempre di più. No, qui la vera rivoluzione per quanto riguarda noi è che tutta la redazione del Sole 24 Ore ha accettato di lavorare contemporaneamente sulla carta e sull'online. Quindi abbiamo un'unica newsroom, abbiamo un unico super desk, copriremo 24 ore su 24 all'alba, alla notte, e il disegno editoriale è quello di raggiungere il lettore ovunque. Lo raggiungiamo con la carta, che resta assolutamente la bandiera e l'anima di questo progetto multimediale, cioè la carta punterà sempre a conservare il primato delle notizie in esclusiva, delle grandi inchieste nazionali e internazionali, soprattutto avrà lo spirito e il metodo giornalistico di Rating 24, non guardiamo in faccia a nessuno e analizziamo i fatti con i nostri criteri, con i nostri numeri, tutto fatto in casa, perché questo è il valore del Sole. Il sito free dovrà acquisire velocità nell'area in tempo reale, ma conservando anche qui un connotato di rigore. Ovviamente sbaglieremo anche noi, ma dobbiamo sbagliare il meno possibile. L'area a pagamento del sito è quella a cui si esprime lo storico valore aggiunto del nostro modo di fare informazione, che parte dalla banca dati, che è un tesoro autentico che noi abbiamo l'onore e l'onere di custodire e valorizzare per noi e per i lettori, a tutti i servizi che possiamo offrire, dall'analisi tecnica alla consulenza personalizzata. Ci sarà poi la replica del giornale sul tablet dalle 6 del mattino e molto presto offriremo un servizio in esclusiva, Buongiorno al tuo amico Sole. Per gli abbonati potranno sapere come ha chiuso New York, un inside su New York, come ha aperto l'Asia, un inside sull'Asia, come il mondo racconta il mondo e come il mondo racconta l'Italia. Avremo poi la replica, un altro prodotto digitale, un altro quotidiano digitale, con la replica arricchita e aggiornata, per cui dall'articolo del giorno si passa ai correlati, quindi a tutti gli articoli collegati e alla banca dati collegata. Infine avremo, ultimo pezzo, il giornale di domani, quindi alla sera, noi anticipiamo pezzi del giornale cartaceo il giorno successivo, un'agenda sugli avvenimenti del giorno dopo con alcuni inside visti magari dal mercato, dagli operatori, su alcuni avvenimenti importanti. Perché tutto questo? Tutto questo significa semplicemente che noi vogliamo connotare il gruppo nel suo complesso come uno strumento di lavoro multimediale. Il punto di partenza è il nostro modo di fare informazione. Siamo noi e la nostra più grande ambizione è farci riconoscere dal lettore su qualunque mezzo. Ci legga sul sito, ci consulti sul tablet, sfogli quotidiano. Beh, questo mi sembra molto, molto importante, a parte che così come deformazione professionale a me l'idea del giornale di domani piace molto alle 18 e anche del buongiorno alle 6 di mattino che fa il riepilogo e l'aggiornamento sulle borse, come hanno chiuso l'America e come ha aperto l'Asia, ma questo diciamo deformazione professionale mia, potremmo dire che i contenuti, quindi l'approccio ai contenuti, la serietà resta invariata, casomai viene rafforzata, quello che cambia è la capacità poi del gruppo di stare su tanti mezzi, noi ne siamo un esempio, visto che trasmettiamo appunto in rete tanti mezzi tradizionali, che restano tradizionali, ma anche la parte più, più innovativa. Una cosa che non abbiamo detto, che sul sito c'è il sole24ore.com con la nuova veste grafica, con le sezioni storiche e giornali, le nuove sezioni, ma a sua volta il sole24ore.com avrà i suoi satelliti, cioè Casa 24, Moda 24, Agricoltura 24, Radio 24, tutte le grandi aree di informazione di questo gruppo avranno un proprio sito, con una propria vetrina e con come dire, una facilità di consultazione, con un richiamo diretto e una capacità e una possibilità di approfondimento che prima non c'era. Il sito era già molto ricco ma un po' confuso, così abbiamo voluto fare un'operazione di ordine, ma anche un'operazione di avvicinamento del lettore a tutto ciò che noi produciamo e che rientra nella storia di questo giornale. Beh, bocca al lupo, bocca al lupo al sito del Sole 24 Ore, anche alla missione che si può sempre migliorare, che quindi, per quanto fosse molto ricco quello di prima, questo dovrebbe essere più semplice, più facile nella lettura, più vicino a chi già conosce il quotidiano. Grazie al direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Arrivederci, grazie. Ed è veramente tutto per questa puntata particolare di Focus Economia, in cui abbiamo ascoltato anche in diretta il discorso investitore di Barack Obama. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Domani torniamo con i temi ancora più classici dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.